Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi parliamo di temi a cavallo fra la storia e la politica e cominciamo da un paese a noi molto vicino, per certi versi molto simile, per certi versi molto diverso, che è la Francia, e ce ne dà l'opportunità il libro di Sergio Romano, Storia di Francia, dalla Comune a Sarkozy, è pubblicato da Longanesi, 304 pagine, 18,60 €. L'autore lo conoscete tutti, il libro in realtà è una ristampa però aggiornata di un saggio già uscito nel 1981, aggiornata perché c'è una lunga integrazione che riguarda i due periodi di Mitterrand e di Chirac. La data di partenza per l'analisi di Sergio Romano è il 1870, una data che l'autore considera non come una cesura nella storia di Francia, ma come una data particolarmente significativa che rimette in moto, scrive Romano, tutte le ipotesi civili sul governo del paese elaborate fino ad allora. Nasce da allora una Francia diversa per i ceti nuovi che esprime, per le riforme che introduce, per le premesse che pone agli sviluppi successivi della politica. E conoscete bene lo stile discorsivo che si accompagna alla grande competenza di Sergio Romano, che in meno di 250 pagine ci dà un excursus molto interessante di un paese al quale, ripeto, siamo così vicini non soltanto geograficamente. Un campo nel quale Sergio Romano in particolare si intrattiene è quello delle istituzioni. Romano è molto efficace nel descrivere la deformazione che la coabitazione che ebbe luogo sotto Mitterrand fra di lui, presidente socialista, e il primo ministro gollista Chirac, provocò al modello gollista, e prende anche le distanze lo stesso Romano dal modello stesso, dal modello gollista, al quale attribuisce un cosiddetto difetto genetico, quello appunto delle relazioni difficili che istituzionalmente ci sono tra il presidente della Repubblica e il primo ministro. Ma sentiamo da Sergio Romano qualche riflessione su questo suo libro. Buongiorno Sergio Romano. Buongiorno. Ambasciatore Romano, nel suo libro lei sottolinea come una particolarità della Francia rispetto all'Italia sia, cito dal suo libro appunto, che il discorso politico è un discorso sulle istituzioni. In questo senso la Francia che cosa insegna all'Italia? In fondo quel paese è stato per noi spesso un modello, si è parlato in Italia di importare la Repubblica presidenziale, il modello gollista, la legge elettorale e così via, però poi questo modello istituzionale non ha mai attecchito. Per cominciare a rispondere alla sua domanda credo occorra ricordare che la Francia ha avuto una ventina di costituzioni nella sua storia. Questo significa che le costituzioni sono importanti, le considera per così dire l'espressione, il libro sacro, il sacro testo in cui sono depositati i concetti dominanti, i valori dominanti del paese e della nazione. Del resto la rivoluzione francese è una storia di costituzioni, non bisogna dimenticare che nel momento in cui la Francia realizza la sua grande rivoluzione ha al tempo stesso come modello se stessa, vale a dire il grande movimento illuminista dei decenni precedenti, ma anche il modello americano, ma anche il modello britannico della gloriosa rivoluzione, che peraltro non fu una rivoluzione con una vera e propria costituzione. Insomma, per la Francia cambiare significa cambiare costituzione, significa sempre assumere degli impegni con se stessa che non siano semplicemente pragmatici, che non siano semplicemente contingenti. Nel libro lei ritiene di aver individuato una componente di fondo allora in questi 140 anni di storia francese? Ma anzitutto la Francia, che questo sì è certamente un elemento di continuità, crede nella propria missione, crede di essere titolare e depositaria di valori che non sono validi soltanto per se stessa, ma debbono essere validi, possono essere validi anche per altri. Di qui, come dire, la tendenza a trasformarsi continuamente in modello, a concepirsi come modello, e questo naturalmente può apparire un po' fastidioso a chi la guarda dall'esterno, a chi ritiene che i francesi siano un po' troppo pieni di se stessi, tanto per intenderci, ma credo che questo vada in qualche modo ricordato. Poi naturalmente i modelli che la Francia ha proposto a se stessa e agli altri nel corso della sua storia sono stati numerosi, non è vero che ne ha proposto soltanto uno. Anzitutto la rivoluzione del 1789 non è quella del 1792, quella del 1789 è certamente ispirata dal modello americano e forse soprattutto da quello britannico del 1688. Ma nel 1792-93 la Francia diventa una repubblica democratica, mentre nel 1789 era stata una monarchia costituzionale. Ed essendo diventata repubblica democratica, naturalmente esprime valori completamente diversi, con un concetto di democrazia molto radicale, molto, come dire, giacobino. Non per nulla la parola ritorna frequentemente nella storia francese. Poi ecco che con l'arrivo di Napoleone al potere, soprattutto dopo la proclamazione dell'impero, la Francia esprime un altro modello istituzionale e ritiene anzi di poterlo esportare in tutta l'Europa. Poi si torna indietro al modello repubblicano, al modello della monarchia costituzionale. Insomma, la Francia e la storia francese è fatta di oscillazioni. C'è un pendolo che continua a oscillare tra i vari modelli costituzionali che la Francia ha proposto a se stessa nel corso della sua storia, e naturalmente ogni qualvolta si corregge in nome del passato, in nome di una certa visione del passato, di una certa percezione del passato. Persino Pétain, in un certo senso, non concepisce se stesso come una novità, ma come una restaurazione. Restaurazione di che cosa? Qualche volta il passato è molto più immaginato di quanto non sia reale, ma nel dibattito politico francese restaurare è qualche volta considerato più importante dell'innovare, anche se in realtà di fatto si innova. Ecco, parliamo un momento di una cosa che nel suo libro non c'è, anzi di una persona, cioè di Sarkozy, perché il libro finisce a Chirac. Ecco, Sarkozy che cosa rappresenta in questa storia? Alcuni lo accusano di essere un po' una forzatura delle istituzioni esistenti. Ma Sarkozy è certamente un gollista e credo si sia reso conto, questo fa parte in qualche modo della sua genialità politica, si sia reso conto che il modello gollista, così come era stato concepito da De Gaulle e applicato dai suoi successori, persino da Mitterrand, era un modello superato, non interamente superato, intendiamoci. Sarkozy non ha alcuna intenzione di ribaltare alcuni principi fondamentali, la preminenza del presidente, per esempio, ma andava corretto, magari prendendo qualche spunto dalla democrazia presidenziale americana. Per esempio, l'idea che il presidente della Repubblica francese vada in Parlamento, sia pure per una riunione congiunta delle due camere, il cosiddetto congresso a Versailles. Con tutti i corazzieri schierati. Certo, ma è nuova rispetto naturalmente al concetto di De Gaulle, che in Parlamento non ci sarebbe mai andato, intendiamoci, non perché non fosse democratico, lo era e come democratico, ma riteneva che la separazione dovesse essere anche una separazione fisica. In Parlamento ci doveva andare soltanto il primo ministro. Invece Sarkozy è diventato per molti aspetti un po' più americano e qualche volta si ha l'impressione che come il Presidente degli Stati Uniti fa ogni anno un discorso sullo Stato dell'Unione, che è in realtà la versione moderna del discorso della corona, e così Sarkozy desidera a sua volta indirizzarsi contemporaneamente al Parlamento e al Paese in un'occasione solenne. Invece l'ultimo eroe della sua storia è Jacques Chirac, che ha abbandonato la presidenza in una fase di grande impopolarità e che oggi abbiamo letto è uno dei politici più popolari di Francia. Ma devo dire che Chirac è sempre stato molto popolare. In un certo momento dovette attraversare una fase difficile, questi processi che non potevano venire celebrati perché godeva dell'immunità, ma che pesavano in qualche modo sulla sua immagine. Ma Chirac è sempre stato straordinariamente popolare in ceti sociali con cui, voglio dire, una certa parte della borghesia intellettuale francese ha poca dimestichezza, cioè Chirac non andava fra di loro. Chirac è stato di gran lunga il meno intellettuale dei presidenti francesi della Quinta Repubblica, meno intellettuale di Pompidou, di Giscard, non parliamo di Mitterrand, che certamente è stato per molti aspetti il più intellettuale. Ma quando andava nelle fiere dell'agricoltura, quando si sedeva a mangiare con i contadini e mangiava perché gli piaceva mangiare ed era capace di mangiare 4-5 volte pasti gargantuelici nel corso della giornata, aveva una straordinaria popolarità. Sì, poi naturalmente il potere consuma, non sempre l'opinione pubblica era contenta di ciò che lui faceva, Ma si ricorda che cosa accade quando a un certo punto nelle elezioni presidenziali del suo secondo mandato il rappresentante della destra, Le Pen, arrivò in ballottaggio perché il candidato socialista venne eliminato. Certo. Lui ebbe il 70-80% dei voti. Sì, certo, erano dei voti anche interessati, gente che non voleva dare a Le Pen la soddisfazione di una mezza vittoria, tanto per intenderci. Però la popolarità c'era. Chirac è stato sempre popolare e adesso continua ad esserlo perché probabilmente si diverte ad esserlo. Questa è la sua, come dire, modo di concepire la sua pensione. Senta, l'ultima domanda. Ogni paese ha la sua storia e anche il suo legittimo orgoglio. Ma la Francia a noi può insegnare qualche cosa? Io ho l'impressione che la Francia e la Germania sono i paesi da cui noi abbiamo sempre imparato di più, indipendentemente dal dibattito pubblico, dalle pubbliche affermazioni. Ma la Francia perché è il paese di cui sappiamo immediatamente che ciò che fa possiamo imitarlo. I rapporti di consanguineità, lasci stare che la cuginanza sia una figura retorica, certo che è una figura retorica, ma in realtà la familiarità storica dei due paesi fa sì che ciò che accade in Francia può essere imitato in Italia. Come d'altro canto ciò che è accaduto in Italia è stato largamente imitato in Francia. E come mai abbiamo imitato il 68 ma non De Gaulle, per esempio? Per una sorta di equivoco nato prevalentemente nella sinistra e anche nella sinistra non comunista. Ci siamo ostinati a considerare De Gaulle il male perché era un generale. Non abbiamo capito che quello che stava facendo era il salvataggio della democrazia francese dall'avventura algerina. Per la verità qualcuno cominciò a capirlo, mi ricordo Saragat che a un certo punto cominciò a dire anche ai suoi amici politici, ma attenzione, quest'uomo ha dato l'indipendenza all'Algeria, voglio dire, ha sbarazzato la Francia di questa palla al piede. Ma la Malfa non lo amava, i repubblicani per carità lo consideravano un tiranno in potenza e allora naturalmente con questa immagine cattiva, negativa di De Gaulle il dibattito sulle istituzioni francesi divenne molto difficile. Tenga poi presente che De Gaulle odiava i partiti, o quantomeno odiava è una parola che forse non si applica al generale De Gaulle, ma forse li disprezzava, ecco, forse questa è la parola più esatta, li considerava fazioni e club, vale a dire corporazioni della politica professionale destinati soprattutto al mantenimento dei privilegi di coloro che ne sono membri. Bene, grazie Sergio Romano, buona domenica. Grazie a lei, buongiorno. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, veniamo adesso alla politica, la politica italiana di oggi, e lo facciamo con due protagonisti oggi forse un po' fuori gioco che però sono stati dei personaggi determinanti fino ad anni recenti della politica del nostro paese. Il primo è Mino Martinazzoli, che fu protagonista di spicco della Prima Repubblica e della Democrazia Cristiana, di cui fu l'ultimo segretario, fu proprio lui infatti a voler tornare al nome sturziano di Partito Popolare che non salvò la vecchia DC dalla fine determinata da Tangentopoli. Il libro di Martinazzoli si intitola Uno strano democristiano e il libro è scritto con Anna Chiara Valle, pubblicato da Rizzoli, 180 pagine, 17,50 euro. E troviamo qui una testimonianza significativa della politica appunto della Prima Repubblica, sulla vita dei partiti e in particolare della Democrazia Cristiana, sulla selezione della classe politica che dava spazio in quegli anni anche a dei galantuomini, nonostante poi la damnatio memoria che ha colpito tutta la Prima Repubblica, anche dei galantuomini come lo stesso Martinazzoli. Particolarmente significativo e malinconico nella sua carriera politica naturalmente furono gli anni dell'ultimo periodo, a partire da un congresso democristiano del 1989, l'ultimo congresso della DC, dove Martinazzoli pone appunto il problema del mutamento che sentiva come un'esigenza improrogabile della Democrazia Cristiana stessa e della politica italiana. Martinazzoli si rivela, anzi si conferma in questo libro, come un politico molto atipico, colto, ironico, alieno dalla retorica, e qui ci dà una testimonianza importante di un impegno di cui non occorre condividere l'ispirazione per rispettarlo. Particolarmente significative, a mio parere, le ultime righe, le ultime parole parole, anzi, del libro, che, nelle quali Martinazzoli si richiama alla mitezza della politica e al limite della politica. Spiega l'ex segretario: continuo a non avere dubbi che nel tempo della illimitatezza della politica, che pure c'è stato, noi siamo stati quelli resistenti e vittoriosi contro il troppo della politica. Continuo a temere che oggi non contiamo più niente contro il niente della politica. Parole che ci riportano all'attualità. Anche all'attualità ci riportano le righe di Fausto Bertinotti, anzi le pagine che Fausto Bertinotti ha scritto con due giornaliste, certo a lui non ostili, Ritanna Armeni e Rina Gagliardi. Il libro si intitola Devi augurarti che la strada sia lunga, è pubblicato da Ponte alle Grazie, 14 euro, 230 pagine. Il titolo è tratto da una poesia del grande poeta Konstantinos Kavafis il libro invece una lunga intervista appunto a Bertinotti, già segretario di Fondazione Comunista, ex presidente della Camera, che ripercorre la sua carriera a partire dagli anni 40, quando nasce a Milano, e poi le prime esperienze politiche. Bertinotti è prima socialista, poi aderirà al Partito Socialista di Unità Proletaria e infine al Partito Comunista, inizia la sua carriera di sindacalista, e in queste prime esperienze Bertinotti tempra la sua passione politica, ma soprattutto la sua posizione, che è di un non comunista profondamente rispettoso però per i compagni del Partito Comunista. Tipico per esempio questo aneddoto: questo vecchio compagno, per dirvi che tipo era, un giorno entrò in un bar dove tutti stavano guardando alla televisione una partita tra Italia e URSS. Domanda: come vanno i nostri? Vinciamo 1-0. E lui: vinciamo chi? Noi, l'Italia. E lui: allora non stanno vincendo i nostri. Non era certo il solo a pensarla così. Erano uomini di fede e trasmettevano comunque il senso di una scelta di fondo per un mondo diverso. Quali fossero per noi i loro errori, io li ho sempre sentiti come compagni. Bertinotti non rinnega nulla della sua carriera, nemmeno la difesa dei 61 licenziati alla Fiat del 1979, che vennero licenziati appunto perché accusati di fiancheggiare il terrorismo. E proprio nella frattura di una solidarietà di classe, Bertinotti individua la crisi maggiore per la sinistra. Dopo la marcia dei 40.000 e la sconfitta del sindacato, Bertinotti infatti provò, scrive, la sensazione profonda di dolore che derivava proprio dalla scomparsa dei lavoratori, della tua gente, del tuo popolo. Prende atto che alla fine del secolo la rivoluzione ha perso, il capitalismo ha vinto, ritiene che il riformismo sia comunque una prospettiva in crisi e anticipa che la sinistra, a suo parere, potrà rinascere se saprà elaborare, scrive, una teoria critica del capitalismo totalizzante. Una lettura anche questa interessante, sia per conoscere un'esperienza di vita significativa, sia per chi, anche senza essere di sinistra, si pone il problema dei nuovi contenuti che la politica dovrà proporre. Un libro che segnalo a Fausto Bertinotti, se ci sta ascoltando, è La vita ai tempi del comunismo, interviste 20 anni dopo, di Peter Molloy, pubblicato da Bruno Mondadori, 264 pagine, 20 euro, ed è tradotto da Alessandro Storti. L'autore è un giornalista della BBC che ha curato questa serie di interviste raccolte poi appunto in un libro. Le testimonianze vengono da 3 paesi, la Germania dell'Est, la Cecoslovacchia, quella che allora era la Cecoslovacchia prima di essere divisa, e la Romania. Sono persone che parlano qua di tutti i generi, che danno uno spaccato della vita quotidiana in quei paesi nel periodo della lunga dittatura comunista. Ci sono magari degli intellettuali come Pavel Kohout che avevano aderito all'inizio al comunismo, salvo poi dissociarsi e rischiare per questo di essere uccisi. Esponenti del regime che descrivono la propria vita nei ghetti dorati nei quali potevano vivere, a spese però di essere sottoposti a un controllo continuo e minuzioso. Gli ex giovani pionieri dei movimenti giovanili educati al culto di Stalin e tante altre testimonianze, tante altre figure che ci danno uno spaccato impressionante della società comunista e della sua eredità, rintracciabile anche in certe forme di nostalgia, anzi come la chiamano loro di ostalgia, per la Germania dell'Est che sopravvivono e serpeggiano in alcune zone dell'ex area comunista. Ma sentiamo alcune righe dal libro che sono tratte dalla testimonianza di uno dei più famosi forse tra gli intervistati, Václav Havel, l'ex presidente della Repubblica prima cecoslovacca poi ceca, e che si riferiscono proprio all'eredità del comunismo. Havel è nato in una potente famiglia borghese di Praga nel 1936. Quando i comunisti salirono al potere nel 1948, fu identificato come nemico di classe e non poté terminare gli studi superiori per motivi politici. Nonostante i successi raggiunti, continua a sentirsi svantaggiato dalla mancanza di un titolo di studio. Devo dire che non sono mai stato comunista, né il comunismo mi ha mai attirato. Però ho sempre desiderato una certa forma di giustizia sociale. Tendevo alla socialdemocrazia. Non ho mai avuto inclinazioni verso un partito e non mi sono mai tesserato. Semplicemente non mi piacciono le ideologie preconfezionate o chiuse in se stesse, con cui identificarmi o meno. Magari mi interessa un'idea e la faccio mia, ma è tutto lì. Ed è questa la differenza tra l'ideale e l'utopia. L'ideale resta sempre all'orizzonte, fa parte della vita, naturalmente. Esiste intorno a noi, e intorno a quel che cerchiamo di fare, ma appena inizia a trasformarsi in una visione utopica, in un progetto di mondo puramente ideologico, allora comincia a diventare pericoloso. Negli anni 70 e 80, sotto il comunismo, la Cecoslovacchia era un paese moralmente devastato. La presenza costante di un sistema totalitario che osserva e vede tutto e distrugge ogni inclinazione a pensarla diversamente, tutto questo ha distrutto l'individualità delle persone. Una testimonianza, questa dolorosa, sul post-comunismo in Russia è quella di Anna Politkovskaja, la giornalista russa uccisa proprio 3 anni fa, il 7 ottobre del 2006. A lei è dedicato il libro di un giornalista televisivo, Andrea Riscassi, Anna è viva, storia di Anna Politkovskaja, una giornalista non rieducabile, pubblicato da Edizioni Sonda, 134 pagine, 14 euro. L'autore ha fatto quasi una missione del ricordo della Politkovskaja e sta facendo di tutto per tenerne viva la memoria e l'esempio, che possono risultare particolarmente importanti vista la versione autoritaria a cui si è indirizzato il regime di Putin. Proprio a proposito di Putin, Anna Politkovskaja aveva scritto: continuiamo a seminare Putin per raccogliere Stalin, non è una sensazione piacevole. E tra l'altro in questo libro si fa giustizia anche del cliché che vorrebbe il successore di Putin, Medvedev, più liberale appunto dello stesso Putin. La Politkovskaja era invece lei una giornalista democratica e liberale, aveva messo al servizio della sua professione questi ideali fino a denunciare nei suoi servizi le violazioni dei diritti umani commessi dal regime di Putin e da ultimo per lei nella guerra cecena. E il libro risulta così un'agghiacciante testimonianza della sua vita, della sua storia, del suo impegno, agghiacciante anche per l'epilogo giudiziario, perché come sapete i colpevoli della Politkovskaja non sono mai stati condannati. In Italia il suo esempio ha suscitato molta solidarietà grazie anche all'associazione Anna Viva e alle trasposizioni teatrali della vita della Politkovskaja, che è stata portata sulle scene da Ottavia Piccolo. L'attrice, nella prefazione a questo libro, ricorda che da questa trasposizione teatrale è stata anche ricavato una trasmissione televisiva che purtroppo giace negli archivi del RAI e che aspetta ancora di essere messa in onda. Speriamo che la scelta maturi presto. Il confettino. Oggi è San Francesco, patrono d'Italia, auguri a tutti i franchini e le franchine. E vi segnalo il libro Santi Patroni d'Europa di Maria Vago, illustrato da Franca Trabacchi, pubblicato dalle Paoline, 162 pagine, 23 euro. Paese che vai, santo che trovi, e qua ci sono tutti i paesi con i loro santi patroni e ritroviamo delle figure che hanno contribuito spesso a forgiare e a rappresentare l'identità di tante nazioni, figure la cui vita spesso avventurosa e sempre affascinante ci viene qui presentata, naturalmente in termini molto leggibili per i più piccoli. Una guida questa anche per capire tanta storia, tanta arte del vecchio continente. E con questo ringrazio Daniele Casagrande, Vittorio Mussini in redazione, Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, unlibro@radio24.it. Vi ricordo anche che per tutto il mese continuiamo a seguire l'iniziativa Piovono i libri, con 2 appuntamenti dopo il GR delle 10 e prima del GR delle 23 tutti i giorni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento alla settimana prossima.